Avevo un'idea del mondo, ma era sbagliata. E me ne sono accorto durante la strada. C'era lei con me, era sdraiata. Mi dava il coraggio quando ogni sera dannata. Ma poi mi hanno legato le mani, tolto il domani. Come coi cani, sempre distante dai miei coetanei. Volevo andare dove si comportano tutti da esseri umani. Ma non a tutti è concesso di essere umani, tanto meno di essere uguali. E quindi sono giunto alla conclusione che qua si è raggiunto il livello di confusione, dove la differenza tra l'urto e la contusione è pari all'innocenza tra un adulto e la corruzione. E sono più i miti che crollano di quelli che restano tali. Come escono più morti rispetto ai vivi dagli ospedali. Sono un comune mortale, ma mi ci devo abituare a non sapere quanto tempo rimane. Spesso mi rendo conto che qua chi si impegna alla metà ce la fa lo stesso. Ho smesso di sperare nella società, visto che la società come fa lo stesso. E vorrei dirti che un modo ci sta, ma sono abituato alla verità. E quando un modo si troverà, questi qua ti diranno che non va lo stesso. Avevo un'idea dell'amore, ma era distorta come un rigore, senza nessuno in porta. L'amore è una macchina senza ruota di scorta. Pensi che le importa, due settimane ti scorda. Ma ciao, scorda i momenti insieme, scorda di baci, che camminare sopra le braci, non ne siamo capaci. Che una volta che fate l'inchiostro hanno segnato le pagine, i ricordi ti possono pungere come le tracine. Pensi che è facile, io so solo che ogni persona è fragile. E che se facessi un'indagine, che scoprirei che metà delle storie sono tragiche. Per stare bene non esistono formule magiche. Ho solo questi 10 grammi per arrivare a domani. Non ho altri piani, nient'altro tra le mani. Sono un comune mortale, ma mi ci devo abituare a prendere tutto per quello che vale. Perché spesso mi rendo conto che qua chi si impegna alla metà ce la fa lo stesso. Ho smesso di sperare nella società, visto che la società come fa lo stesso. E vorrei dirti che un modo ci sta, ma sono abituato alla verità. E quando un modo si troverà, questi qua ti diranno che non va lo stesso. E vorrei dirti che un modo ci sta, ma sono abituato alla verità. E quando un modo si troverà, questi qua ti diranno che non va